4 mattino. Papi, ci serve qualcosa per proteggere la nostra famiglia. La penso come te, Marjorie. Tu meriti la pace dei sensi e la pace è proprio quello che avrai. Vorrei comprare la pistola più letale che avete. Scaffale, sei accanto ai biglietti di condoglianza. Di nuovo strage in America. Strage figlia delle armi, come suggeriscono molti, ma rivendicata dall'ISIS. Quindi di nuovo un dilemma. Inizio a leggere i titoli dei giornali che si aprono e sono incentrati ovviamente su quello che è accaduto a Las Vegas. La morte viene dall'alto, Libero, 58 vittime, 500 feriti. L'ISIS rivendica, ma l'assassino è un americano di 64 anni, all'apparenza tranquillo. Corriere della Sera, strage al concerto, cecchino in un hotel. L'ISIS rivendica, per CIA e FBI non è terrorismo. Il Giornale, gli sciacalli dell'ISIS, massacro a Las Vegas, un pazzo spara sulla folla, verità o propaganda, l'ISIS e il califfato dicono è un nostro soldato. La Repubblica, il grande massacro americano. Las Vegas, killer di 64 anni, con 19 fucili, pensate, spara dal 32esimo piano sulla folla di un concerto, 58 morti. E poi il martirio di Las Vegas, secondo il Foglio. Invece un'apertura diversa per il Fatto, vogliamo scegliere noi, ne parleremo, è un appello contro la legge elettorale. Orrore mai visto, Il Giorno, ma anche un'altra apertura sulla Catalogna. La Stampa. Las Vegas, massacro al concerto e poi la sfida catalana. La strage è più feroce, Il Messaggero, scuote gli USA. Catalogna, il sì solo dal 38%. Attenzione, questa è un'apertura diversa. Quella del Quotidiano Romano di Via Barberini. Il Secolo XIX, apocalisse al concerto country. E la Catalogna chiama l'Unione Europea, il nodo che dicevamo, cosa farà l'Europa. E mentre Il Manifesto ha questa grande foto, l'infanta di Spagna, la Catalogna prende tempo sulla dichiarazione di indipendenza. Avvenire, azzardo catalano, vedete il quotidiano De Vescovi è schierato durissimamente contro la secessione, Barcellona pronta a proclamare l'indipendenza, oggi lo sciopero generale. L'Unione Europea è con Madrid, ma vedrete che su questo c'è meno certezza. La Verità, dicevamo, a ruolo del presidente degli atei, è un titolo su l'assunzione di Sergio Staino, famoso padre della satira di sinistra, che firmerà una striscia sul quotidiano dei Vescovi. Il pezzo è di Mario Giordano. Allora cominciamo dunque subito da Las Vegas, dove bisogna leggere il pezzo di Zucconi su Repubblica che racconta il problema ancora una volta delle armi in America. È una questione che ritorna dai tempi di bullying a Columbine e la famosa strage raccontata poi in un film altrettanto famoso di uno dei cineasti più controversi e popolari, Michael Moore. Allora, 300 milioni di armi automatiche, il grande fiume rosso, scrive Zucconi su Repubblica, che bagna l'America con il sangue da 33.000 uccisi ogni anno, è riempito da vittime di armi da fuoco. Esonda, raggiunge il parco giochi degli adulti e della loro spensieratezza, arriva a Las Vegas. Beh, un bel attacco. Le statistiche, scrive Vittorio Zucconi su Repubblica, informano che le decine di morti, almeno 58, le centinaia di feriti, oltre 500, raggiunti dai colpi dell'assassino, sono il record storico di vittime in una sparatoria in tempo di pace. Ma il milione di fucili d'assalto militari, con quelli usati al cecchino dell'hotel, in mano legalmente o illegalmente a civili, e i più di 300 milioni di pistole automatiche, garantiscono che anche questo record sarà un giorno battuto. Troppi e troppo prepotenti sono i rigagnoli, scrive Zucconi, o i torrenti o gli affluenti che alimentano il grande fiume rosso, e nessuna diga, nessuna bonifica può ormai prosciugarli o fermarli. Quasi una visione apocalittica quella di Zucconi, ovviamente tutta la colpa delle armi, ma anche della follia che sconvolge gli uomini. E dentro c'è una doppia pagina di foto con i movimenti opposti, uomini contro la guerra, ma anche pistoleri, gente che si fotografa su Facebook con giubbotti antiproiettile e armi in mano. Poi c'è il ritratto di Las Vegas del grande Lansdale. Las Vegas delle famiglie, piccoli peccati e buffet, il sogno, il piccolo sogno di ricchezza alla portata di tutti. Questi erano i primi due pezzi, così, proprio per apparecchiare la tavola, ma ovviamente bisogna partire da un editoriale. L'editoriale riguarda l'America, è quello del Corriere della Sera, Gaggi, avete sentito le parole del presidente Trump, e Gaggi sul Corriere della Sera, pagina 1, dice: è una potenza fragile. Il pastore di anime, più che il capo del governo più potente del pianeta. Davanti al massacro più terrificante e vasto, Donald Trump ha pregato, invocato Dio, chiesto benedizioni per le vittime, le loro famiglie e l'America. Misure per evitare che le stragi si ripetano e divengano sempre più cruente? Su questo nulla. Solo una sommessa dichiarazione: non esistono soluzioni facili, ora è fin troppo semplice prendersela con il presidente che, dopo aver alimentato rabbia e divisioni per usarle come combustibile politico, in un momento difficile invoca l'unità dell'America e propone l'amore come suo collante. Questo lo scenario, ma perché bisogna, io non capisco però questo, cioè si può dare la colpa di questa strage a Trump? Io penso proprio di no, non amando Trump, mi sembra una follia. Accoltellatore di Aprilia, pensate, a pagina 9 su Repubblica, non l'avevo visto con l'evidenza di un titolo, e stiamo passando da una strage all'altra, c'è la storia del killer di Marsiglia. Pensate, fino a 3 anni fa viveva nella famosa cittadina del Lazio. Le indagini sull'accoltellatore Saint Charles era sposato con una nostra connazionale. Ahmed Anaci, il killer di Marsiglia, scrive Fabio Tonacci, Repubblica, pagina 9, è un'intera pagina molto interessante dal punto della ricostruzione sociologica, ma reggo solo attacco. Ha vissuto per lungo tempo in Italia, almeno fino a 3 anni fa era ad Aprilia, sposato con una donna italiana. Si arrabattava con lavoretti saltuari nei campi e nei cantieri e ha fatto in tempo ad accumulare un paio di arresti per spaccio e furto prima di sparire nel nulla. L'inchiesta aperta dal parquet di Parigi dopo il duplice omicidio di domenica per adesso non ha trovato riscontri, scrive Tonacci sulla Repubblica. Non ci sono prove che sia vera la rivendicazione dell'ISIS, né evidenze di contatto con jihadisti. Non è chiaro nemmeno perché la polizia di Lyon, che 24 ore prima dell'aggressione lo aveva fermato per furto senza permesso di soggiorno, lo abbia rimesso in libertà. Allora guardate il filo conduttore delle rivendicazioni dell'ISIS, il filo della follia, l'incredibile apparente casualità di stragi che da un capo all'altro nel mondo hanno lo stesso tremendo nome, lo stesso marchio di infame terroristico. Meteo. Ma voi veramente non state bene, fatevi vedere, io ve lo dico fraternamente. Ma vi volete rilassare? Mannaggia. Mattino. Siete nella cacca fino alle orecchie. Ancora non ve ne rendete conto, ma siete la generazione dei tre niente. Niente lavoro, niente reddito, niente risorse. Davvero un gran bel futuro. E allora, Catalogna indipendente, cala l'euro, spread in rialzo. L'Unione Europea, referendum illegale, ora serve il dialogo. Questa è l'apertura del Sole 24 Ore, l'unico quotidiano che ci segnala oggi l'oscillazione di questo indicatore molto importante. L'equilibrio è precario dal punto di vista politico ma anche economico, quindi i pezzi a pagina 3 di Luca Veronese raccontano cosa sta accadendo nel termometro dei tassi, degli indici, di tutto quello che si muove, ovviamente per effetto della rivolta catalana. Ma sulla Verità, a pagina 15, un pezzo di Claudio Antonelli molto interessante: nonni poveri con case ricche. Attenzione, non vi arrabbiate, la proprietà andrà alla banca. Cioè, Fondazione Cariplo, racconta Antonelli, ha fatto uno studio su come 1.4 milioni di ultra sessantenni non hanno reddito adeguato per mantenere l'immobile che posseggono e aiutare i propri eredi. E così suggerisce due vie. Uno è la nuda proprietà, che è in aumento dell'1,4%, l'altro il cosiddetto vitalizio ipotecario. Cosa sarebbe? È il prestito, in poche parole, racconta Antonelli, che permette al proprietario over 60 di ottenere una somma cedendo una quota variabile dell'immobile alla sua banca. La somma elargita potrebbe essere versata mensilmente o in una sola soluzione. In ogni caso, al momento del decesso, gli eredi dovranno riscattare dalla banca la quota ceduta a garanzia del prestito vitalizio. Allora è un fenomeno molto rilevante perché, come abbiamo letto, ricorda ancora Antonelli, 1,5 milioni di famiglie di over 60 possiedono una casa di valore medio-alto, spesso sopra i 200.000 euro, ma dispongono di un reddito basso o nullo. In sostanza non sono in grado di mantenerla e soprattutto non sono in grado, mentre sono in vita, di aiutare i propri eredi. I nipoti, come ormai viene dato per certo, non riescono a trovare lavoro e godranno di una pensione degna di tale nome solo alla fine della loro vita. E quindi questa è la soluzione. Attenzione, è un grande mercato, c'è qualcuno che ci vuole mettere le mani sopra, però non è una bellissima storia. Allora, ho trovato sulla Verità e sul Manifesto, pensate, due, sulla Verità pagina 13 e sul Manifesto pagina 7, due giornali che più lontani non potrebbero essere, il problema, lo leggo quindi dal Manifesto a pagina 7, dell'occupazione, che integralmente l'aumento dell'occupazione è trainato dal precariato. Chi lo dice? È l'ultima analisi ovviamente che arriva dall'Istat. I 36.000 occupati in più ad agosto, un mese in cui fioriscono i contratti stagionali registrato all'Istat, ieri hanno fatto esplodere la curva renziana. Il governo, a cominciare dal presidente del Consiglio Gentiloni, racconta Roberto Ciccarelli sul Manifesto, hanno vergato comunicati soddisfatti per il ciclo favorevole dell'occupazione. I dati che hanno portato Matteo Renzi a scrivere sul suo Facebook "i gufi anti-Jobs Act sono spariti". Confermano invece, scrive il giornalista del Manifesto, una verità indicibile da parte di una maggioranza sotto stress elettorale. La crescita dell'occupazione è trainata integralmente dai contratti a termine precari, più 1,6%, è dovuta all'occupazione femminile, più 0,5%, e non modifica il gap con quella maschile. Quindi la maggior parte di questi contratti sono contratti a tempo determinato, e ovviamente non è che non ci faccia piacere, però è una percentuale molto alta, 81%. Ne riparleremo, forse ci sarà da discutere, però tassi e boccia, una lettera del presidente della Confindustria occupa oggi la prima pagina del Sole 24 Ore. Quando si fanno le riforme, i risultati arrivano. Questo il senso dell'articolo, che gira a pagina 5 e che contiene questo, questo messaggio. Allora, la gamma dei provvedimenti che si sono caratterizzati per la particolarità di premiare gli investimenti a beneficio della competitività delle imprese hanno funzionato. Si è trattato di una scelta chiara. Nessuno scambio con la politica, scrive Boccia sul Sole, né la scelta dei settori, ma interventi sui modi di sviluppare il paese. Questo ci permette di raccontare all'Italia e ai nostri partner europei che il paradigma di pensiero di definire prima gli effetti che vogliamo realizzare in economia reale e poi di individuare gli strumenti e quindi le risorse e quindi intervenire sui saldi di bilancio è la strada da continuare a seguire anche nella capacità di racconto in termini oggettivi di quanto sta accadendo. Questo ci fa dire, conclude nell'ultima parte dell'articolo Boccia, che continuare nella stagione riformista a partire dalla prossima legge di bilancio, completando l'intervento organico di politica economica, attivando investimenti pubblici, semplificando e puntando a includere i giovani nel mondo del lavoro, nonché aprendo una grande stagione di riforme europee per un paese che sta dimostrando di saper fare i conti con la propria potenzialità e non appiattirsi sul presente. Un lungo messaggio, ovviamente una lettera che è una speranza, perché si avvicina la grande manovra del DEF. E qui dobbiamo passare sempre al Sole, a pagina 6, sul crollo delle low cost. Questo è un fenomeno che veramente è un'onda, sapete, è partita da Ryanair, ma è spiegata molto bene perché c'è questa ondata di instabilità, il fallimento di Monarch Airlines con 100.000 passeggeri a terra, pensate, 750.000 voli cancellati, è l'ultima di queste notizie, la racconto ai giornali di oggi, ma Mara Monti sul Sole fa un'analisi e spiega le tre cause: contratti, sterline e petrolio. Sono queste le tre mine che fanno traballare i vettori low cost. Per fortuna anche una buona notizia, la prendo sempre dal Sole, a pagina 15 è il dato trimestrale, diciamo, sul mercato dell'auto, e per fortuna qui il mercato sale, più 8,1% verso i 2 milioni di vendite nell'anno. Pensate, FCA cresce del 5,2%, corrono Nissan e Renault, balzo record di Jeep che aumenta le vendite del 44%. Marchionne nel 2018 annuncia lo spin-off di Magneti Marelli, è sempre sul Sole ed è una notizia importante, imprese e territori a pagina 1, ma soprattutto si muove questo settore che è una parte importantissima del PIL. E allora i precari e i nuovi assunti, il calo dell'euro, le low cost che tremano, insieme a un quadro di luci e ombre in cui però abbiamo molto chiaro quello che sta accadendo. Passiamo rapidamente alla parte politica. Allora, c'è grande sussulto per chi ama la politica dei dettagli a sinistra. C'è malumore nei bersaniani, ci racconta Goffredo De Marchis su Repubblica a pagina 13, malumore perché avrebbe rinunciato ad andare nella delegazione all'incontro del Gentiloni Roberto Speranza, cedendo il suo posto a Pisapia. Poi c'è una trappola contro Berlusconi, avvisa Belpietro sulla Verità, e sarebbe un emendamento per sequestrargli attraverso un collegamento con le condanne i suoi beni. E allora questo è interessante perché ha sicuramente delle implicazioni politiche. Belpietro a pagina 11, un'arma caricata contro Berlusconi è dentro il codice antimafia, così il direttore della Verità è in pista, pronta la trappola giudiziaria. Ora che il fondatore di Forza Italia minaccia di ridiscendere in campo e di vincere le elezioni, è partita la caccia al leader azzurro. E Pisapia sul Corriere della Sera, uno scenario totalmente opposto, che parla di lui come unificatore della sinistra, ma spiega anche i continui dissidi con MDP. E poi è molto importante la notizia, la prendo da Repubblica, del nigeriano che ha impedito la rapina. La leggevo nella prima parte, come sapete, questo è il fatto, e poi c'è un corsivo molto divertente di Mattia Feltri. Il fatto è che questo signore che era vissuto di mance e di elemosine è diventato l'eroe di una giornata. Io, senza permesso in Italia, ho fermato a mani nude il bandito con la mannaia. Il mio sogno è un futuro qui, racconta, intervistato da Giuseppe Scarpa, si chiama John Oga, 31enne nigeriano che ha sventato questa rapina in un supermercato di Roma. Da 6 mesi chiedo l'elemosina, ma questa non è vita, vorrei un lavoro, mi manca la mia famiglia. La storia: abito con altre persone in una casa occupata, per me è frustrante, so che è illegale e so che non ho un lavoro, chiedo l'elemosina perché devo mangiare, ma come posso fare altrimenti? Nel mio paese non posso tornare, in Nigeria volevano che mi affiliassi a un gruppo criminale, ma io mi sono rifiutato, sono scappato e so che mi avrebbero fatto del male. Ho lasciato il mio paese nel settembre 2013, vengo dallo stato di Kaduma e nella mia città facevo il saldatore. Prima di arrivare in Italia sono stato 3 mesi in Libia, poi sono sbarcato in Sicilia con un gommone nel maggio 2014. Cerchiamo di capirli, di conoscerli, sono ovviamente diversi e sono buoni e cattivi. Allora, dal secolo XIX, il fondo di Mattia Feltri, sapete che è anche sulla Stampa, che dice: a volte li dipingiamo come eroi, a volte come criminali, chi innalza sul podio il migrante eroe per dimostrare che la maggioranza dei migranti è meglio di Zorro, chi fa il contrario. Questo giochino, scrive Mattia Feltri sulla Stampa e sul Secolo, dell'emozione a fumetti, è il succo di un dibattito da dopo lavoro in cui lo sforzo illuministico al massimo è citare i numeri per rafforzare l'idea che i migrati portano criminalità oppure che lavorano e producono ricchezza. Chissà, magari un giorno giorno, superata la fase Peppa Pig, scrive Mattia Feltri, ci renderemo conto che fermare l'immigrazione è impossibile, tanto travolgerà tutto, ma che gestirla, oltre all'anarchia e la sciatteria attuale, è indispensabile. Poi certo, effettivamente, ci sono immigrati buoni e immigrati cattivi, e anche immigrati molto buoni o molto cattivi. Ci saranno persino gli immigrati sia buoni che cattivi, dipende dal giorno e dal momento. Sono fatti così gli uomini. Mattia Feltri, e ci fermiamo ancora. Cippa lippa. Faircam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta... Mattino. Basta con i gufi! Basta con i gufi, e c'è molto da raccontare ancora. Allora, le ripercussioni degli scontri a Torino fra Scatasuna e il movimento Notav, che ovviamente interrogano la giunta dei 5 Stelle. Allora, Annalisa Cuzzocrea su Repubblica ci racconta perché è così importante. Pagina 15, pagina. Una signora mi ha detto non dire pagina, e io non dico pagina, dico pagina. Allora, centri sociali, Cobas e antagonisti, la rete del Movimento 5 Stelle che imbarazza Di Maio. Dalla TAB in Piemonte al Muros in Sicilia, l'eredità più battagliera fa i conti con la nuova linea, spiega Annalisa Cuzzocrea, Repubblica. C'è un pezzo di Movimento 5 Stelle che non corrisponde alla figura e alle parole d'ordine del neocandidato premier Luigi Di Maio, ma che risale piuttosto alle origini della forza politica creata da Beppe Grillo, quando molto prima di entrare in Parlamento ridiede vigore, mettendola in rete, a buona parte delle idee che all'inizio degli anni 2000 avevano animato l'armamentario no global, la lotta al sistema, la guerra alla multinazionale, i beni comuni. Questo è il primo problema, cioè la protesta è stata sostenuta da una parte dell'amministrazione e il vice sindaco della giunta di Torino si fa intervistare sul Corriere da Marco Imarisio e spiega perché lui è assolutamente d'accordo con quella protesta che, come sapete, ha portato agli scontri. Allora andiamo a pagina 17 e raccontiamo... Il vice sindaco che difende la piazza si chiama Guido Montanari, ha 59 anni, è un architetto, un docente universitario, vice sindaco di Torino nella giunta della sindaca 5 Stelle, Chiara Appendino, è l'assessore all'urbanistica. Bene, difendo la piazza, qual è il problema? Chiede Imarisio. Professor Montanari, lei è un vice sindaco di lotta e di governo? È una semplificazione ingiusta. Un'amministrazione ospita un vertice adempiendo a un dovere istituzionale e poi alcuni suoi responsabili ne criticano i contenuti. Non vedo quale sia il problema. È normale che la sindaca pranzi con i ministri del G7 mentre i suoi consiglieri marciano contro di loro? Se Forza Italia avesse fatto il suo congresso, avremmo dovuto osannare Berlusconi? Se ci fosse stato un convegno dei macellai, avremmo dovuto ingozzarci tutti di carne? Il diritto di critica in questo paese mi sembra davvero messo male. Non tollero atti di violenza fisica e morale nei cortei e li condanno con forza, ma rivendicare il diritto dei cittadini a organizzare manifestazioni, questo assolutamente sì. E allora vedete che è un dibattito interessante e pone il problema. L'appello del Fatto, vogliamo sceglierli noi. L'appello da oggi sul sito del Fatto: si firma per una legge elettorale senza nominati. Sono pagina 2 e 3, sono due pezzi da leggere, Truzzi e Gallo. Come per il 4 dicembre, scrive Silvia Truzzi, è un'altra battaglia di legalità. Gli animatori del comitato del No si riuniscono contro la proposta nata sull'asse PD Forza Italia. Servono regole oneste. Farà strada questo appello? Tanti nomi diversissimi, dal presidente dell'ANPI, il costituzionalista Zagrebeschi, la Carla Sarre, Domenico Gallo, ex presidente della Corte Costituzionale, Alfiero Grandi, un leader storico della sinistra. Lasciateci scegliere i nostri parlamentari. Allora, è arrivato il momento della mitragliata. Su Repubblica, a pagina 22, un pezzo straordinario, esami al posto dell'indagato. Cioè, lui è indagato e ha mandato l'alter ego. Non è male. guerra di biciclette elettriche con i cinesi. La Stampa, pagina 15. I produttori italiani chiedono il dazio e spiegano: sono biciclette che fanno schifo. Cani e gatti, la dittatura delle anime belle. Questo è un pezzo da leggere. Animalisti vade retro. Si è arrabbiati a Massimo Fini per un niet alla mostra del museo Guggenheim, dove sono stati costretti, pensate un po', a ritirare tre opere, scrive Massimo Fini, di artisti concettuali cinesi ritenute dagli animalisti una mancanza di rispetto e un'espressione di crudeltà nei confronti degli animali. La prima a scendere in campo, racconta Fini, è stata la presidente di People, Ingrid Newkirk. Sono seguite imponenti manifestazioni di animalisti davanti al Guggenheim, una raccolta di firme di protesta con un aderito 700.000 persone. E ovviamente il senso di Massimo Fini è: detesto gli animalisti, non gli animali, che sarebbero anche delle brave bestie se non fosse per i loro padroni. Ale! Sul Giorno, pagina 13, l'incredibile vicenda delle iene. Pensate, a pagina 13 c'è il racconto di questa inchiesta di Filippo Roma. Onorevole, non mi paga da anni, e perché non le ho detto di sì sessualmente? E questa è la risposta. Ti posso dare 300-200 euro se mi aiuti per la campagna elettorale. Si tratta dell'onorevole Mario Caruso. Le telecamere delle iene sono entrate nel suo studio e hanno filmato questo dialogo. Ma vi rendete conto? Se vai a lavorare alla festa del PD e nel giorno in cui c'è il ministro della pubblica istruzione ti danno i crediti formativi. C'è la Fedeli alla festa, scrive Francesca Fornario, lavorate gratis in cambio dei crediti. Mamma mia. Urgentissimo, mi servono 10 ragazzi disponibili con la divisa completa da sala per una manifestazione importante a Viterbo a cui è presente la ministra dell'istruzione. Ci sarò anche io la sera del 9 settembre. Ricordatevi che passano come crediti formativi e potrebbe esserci anche un rimborso spese. Così recitava il post scritto da Riccardo Minciotti, docente dell'Istituto Ipsea di Caprarola, sulla pagina Facebook della scuola. Capito? Vai a assistere il politico e ti danno il credito. Però oggi la vetta più alta, quello che ci emoziona, è la notizia che viene riportata dalla Verità a pagina 23. Il meritorio, so che qualcuno si arrabbierà, il meritorio preside di Milano che manda gli studenti a zappare nell'orto se fumano a scuola. Allora, niente sospensioni né multe, La Verità, pagina 23, per gli studenti indisciplinati. Domenico Balbi, dirigente scolastico dell'Izzos Albersteiner di Milano, scuola indirizzo spettacolo, li manda a zappare. Quando trovo i ragazzi a fumare dovrei fare loro una multa, pensate, di 27 euro, che però ho deciso di commutare in lavoro, spiega il preside. All'inizio i ragazzi accettavano divertiti pensando che fossero ore di svago, ma questa percezione, vi assicuro, è durata poco. Strellano, raccolgono pietre, potano, abbattono alberi malati e trasportano manualmente gli scarti del verde. Quindi ora hanno compreso il senso della fatica. Nell'ettaro di terreno sul retro della scuola sorge un orto con pomodori, zucchine, mentre nei giardini interni si coltivano camelie, rose, ortensie e agrumi. A zappare, vai! No, questa è la più bella, non è per addetti ai lavori, è interessante perché sapete che è successo un inconveniente alla RAI, Il Foglio, pagina 1, Andrea Minuz, e per 10 minuti è andato in onda nel mattino di RAI 1 il monoscopio, nero. Sapete che per chi è in televisione il nero è peggio del silenzio in radio, una tragedia. Ebbene, l'auditor del giorno dopo ha segnato un record di ascolto. E allora si chiede giustamente Minuz sul Foglio: i 10 minuti di blackout nel mattino di Rai 1 che hanno segnato questo incredibile boom di ascolti ci dicono due cose: o l'auditor si sbaglia o noi non capiamo l'Italia. E allora ci fermiamo qua, ricordate, fra poco arriva Oscar Giannino, arrivano tanti ospiti interessanti, racconteremo di più della Catalogna e ovviamente vi faremo sentire le voci dei cani e dei gatti. Ma fammi ridere, fammi ridere, caro ascoltatore, Simone, fammi ridere.